Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Medico, istruzioni per l'uso. Influenza A, te la canto e gliele suono. Sani peccati di gola. Medico, istruzioni per l'uso. Oggi cerchiamo di capire come gestire e sfruttare a nostro vantaggio le competenze del nostro medico curante, perché se è vero che essere buoni medici è difficile, lo è altrettanto essere pazienti attivi, competenti, capaci di diventare interlocutori reali di un momento molto importante, il momento in cui ci mette proprio a contatto con il nostro medico, che è la visita. E partiamo proprio qui, da qui, dalla visita medica. Chiedo subito a voi all'ascolto di cominciare a chiamarci 824 0024 per raccontarci una visita che vi ha colpito in modo particolare. Non direi tanto per la qualità dell'intervento tecnico, parleremo anche di questo, ma soprattutto per la competenza che il medico vi ha dimostrato in termini di comunicazione, relazione, fiducia e informazione. Quindi ci servono senz'altro esempi positivi, ma anche esempi, diciamo, fallimentari. Visite che vi hanno lasciato senza parole, vi hanno fatto anche arrabbiare per l'incapacità dello specialista di prendersi cura di voi, non solo come pazienti, ma soprattutto come persone. Chiamateci, perché le vostre storie le faremo analizzare, commentare e valutare dai nostri specialisti che mi auguro ci forniranno anche nuovi modelli di comportamento per aiutarci a trarre il meglio da ogni incontro con il medico che ci troviamo di fronte. In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Avrei avuto piacere di averla qua, ma la neve l'ha bloccata. Sì, troppa neve. Ci separano cumuli di neve. Non sarei forse arrivato in tempo. E in linea con noi il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore. Allora, io direi di iniziare subito ad ascoltare un esempio che sicuramente ci farà sorridere, ma che più che comico rischia per molti di essere tragicamente vero. Di solito la lingua scritta è quella peggiore, quella dei medici, che anche ad un imbarazzo vai dal medico, perché magari dice: dottore, mi dica, si segue, prego. Sì, dottore, io non so come dirlo, però purtroppo da un po' di tempo soffro alla pancia, soffre di meteorismo? No, faccio le puzze di notte, non me ne accorgo nemmeno, ne faccio una dietro l'altra. Ah, appunto, lei soffre di aerofagia, questo è un sistema ematico, aerofagia di stipsi collegata a un aggravamento della linfa di Fanis, capisce? È emetico, non lo so, emetico è lei, io sono venuto da lei proprio perché non lo sapevo. Prenda due Cubadrin, due Gedital, due Zapanen, due Zombitan, perché anche nei nomi delle medicine, la metà della parola delle medicine corrisponde al male, due Lofadrin, due Puzzanan. Prende questo e vedrà che nel giro di pochi giorni, e poi ritorna per un controllo, va bene? Ecco, io gliel'ho scritte, le Lofadrin le prende una la mattina o la sera, le Gimital prende in compresse prima e dopo pranzo, l'altra a cavallo tra la cena, prima colazione, dopo pranzo, appena si sveglia, dopo mangiato, quando va a dormire, prima di coricarsi, quando ha mangiato, quando va a dormire. Ma non le posso prendere tutte insieme? No, signora, se no c'ha l'effetto contrario, poi dove le andiamo a prendere? Era Enrico Brignano. Professor Remuzzi, dottor Gargiulo, esistono ancora medici così? Non è tanto proprio di fantasia, insomma, medici che parlano medichese, prescrivono tonnellate di farmaci e lasciano il paziente senza parole, nel senso che proprio non lo lasciano parlare. Professor Remuzzi? Sì, esistono ancora un po', purtroppo. Era peggio una volta, vi racconto una storiella di una volta, se posso. Certo. È una storiella di Tolstoi, si chiama La morte di Ivan Illich. Vedete, questo indica che nei vostri visceri accade qualcosa, ma se l'esame della tale e dell'altra cosa non lo confermasse, bisognerebbe supporre allora questo e quest'altro, e se si suppone questo e quest'altro, in tal caso si potrà fare così. A Ivan Illich importava una sola cosa: il suo stato era grave o no? Una domanda quanto mai assurda. Ditemi, dottore, in generale questa malattia è grave oppure no? Il medico lo fissò severamente, con un solo occhio attraverso gli occhiali, come a voler dire: accusato, se non state al vostro posto sarò costretto a farvi allontanare dall'aula. Vi ho già detto, signore, tutto quello che ritenevo utile. e ragionevole che sapeste, rispose il dottore. Adesso non ce ne sono quasi più di dottori così. Dottor Gargiulo, conferma? Sì, sono assolutamente d'accordo con il professore, purtroppo era un modo dei nostri medici di una volta di trincerare la loro ignoranza dietro a parole particolarmente difficili, quindi assumere una posizione di dominanza sul paziente, sul cittadino. Oggi questo sarebbe impossibile, con l'informazione che circola così velocemente è difficile avere un atteggiamento di questo tipo, e grazie al cielo si sta perdendo anche per molti corsi di comunicazione, di modo di interagire tra medico e paziente che i medici di medicina generale fanno. Quindi voi notate che qualcosa è cambiato in meglio, professor Remuzzi, in questi anni? Certo, adesso tanti malati vanno dal dottore dopo aver passato ore in internet a leggere tutto quello che c'è sulla loro malattia. Sanno già quali sono i centri migliori, i medici più preparati, le terapie più moderne. E non è sbagliato, anzi, a me pare che i medici dovrebbero incoraggiare chi lo desidera a farlo. Ci sono studi, per esempio uno è pubblicato su un giornale americano di medicina interna, che hanno fatto vedere che ammalati che leggevano di medicina stavano meglio di chi non si teneva informato. Vede. Tra l'altro, non è che lo dice perché siamo a essere benessere, perché se leggono e stanno bene, figuriamoci ad ascoltare, professor Remuzzi. Certo, esatto. Tra l'altro, è una cosa importante, ricalca quello che ha detto il dottor Gargiulo un attimo fa, più gli ammalati sono informati, più per noi è facile fare il dottore. Ed è vero soprattutto per ammalati di malattie gravi, quando non ci sono abbastanza dati per sapere davvero qual è la cosa giusta da fare. Io voglio leggervi subito un messaggio da Christian, ne stanno già arrivando diversi al 349-238-6666. La visita che mi ha più deluso la feci da un ortopedico, mi recai da lui dopo un trauma distorsivo al ginocchio. Lo specialista mi disse: tranquilla, una leggera distorsione, fai 10 giorni di riposo e puoi riprendere a giocare. Peccato che in realtà avevo il crociato rotto e il menisco lesionato. Dottor Gargiulo, a volte si prendono degli... Sì, beh, le cantonate si possono prendere, sbagliamo tutti, e non, questo non è umano, però in realtà un conto è fare un errore guardando il paziente sulla stipite della porta o da seduti chiacchierandoci 5 minuti, un conto è fare un errore dopo aver fatto una visita accurata. Allora, se si fa una visita accurata e non si riesce a vedere qualcosa, beh, questo io lo giustifico perché può succedere a tutti noi. Se tu non hai valutato tutto, se non hai visto il paziente bene, se non l'hai visitato come si deve, allora a quel punto il tuo errore è un errore grave, un errore quasi criminale, perché vuol dire che non hai fatto il tuo lavoro. Allora, rimaniamo in attesa delle vostre storie, ma anche delle domande che volete porre ai nostri esperti, per sapere forse quello che il vostro medico non ha avuto il tempo di dirvi. Spesso le visite durano veramente poco. Allora io vi invito a mettervi in contatto con il nostro numero verde 824 0024 o a scriverci, come state facendo, al 349 238 6666. Una mela al giorno. Oggi è martedì e noi torniamo a parlare della nostra influenza. Influenza A, te la canto e gliele suono. E c'è una new entry. E qui in studio, in carne e ossa, Gianna Coletti, attrice non solo, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Che ha scritto testo e musica. Beh sì, in qualche modo l'ho scritto in effetti. La consulenza scientifica è stata affidata al dottor Roberto Boffi. Buongiorno. Buongiorno. Pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori e grande amico di Essere Benessere. Andiamo subito a sentire allora questa new entry. Ecco qualche regola per evitare il fisco, ma no, per evitare l'amante che vi perseguita, ma no, per evitare il grande fratello, ma quello basta non guardarlo, per evitare l'influenza A, l'influenza A. Camai, palmolive, felce azzurra, paglieri, oppure d'ave, monotalco, spuma di champagne, manca un semplice sapone purché vi laviate spesso le mani. Mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, spalancate le finestre spesso, aria fresca tutto il giorno spesso, lo starnuto se vi scappa spesso, nel fazzoletto lo farete sempre, poi buttatelo via, eh. Mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, ma se di lavarvele lo avete scordato per caso, non toccatevi occhi, bocca o naso, al massimo un dito nell'orecchio. E se avete un po' di febbre, tosse o raffreddore, statevene al caldo e chiamate il dottore! Mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, eccoci qui, come le è venuta in mente? E, ecco appunto, questa è una domanda alla quale io non saprei rispondere. Comunque, consultandoci con Bob, perché lo chiamo così teneramente, Bob. Dottor Boffi, qua scopriamo delle tresche. E intanto c'è stato subito così una piccola diatriba sul fatto che giustamente bisogna spalancare le finestre ogni tanto o no. Dottore, dica lei, dica lei. Beh, io sono pneumologo, per cui chiaramente so bene quanto sia importante cambiare aria, no? Da tutti i punti di vista, quando c'è un'aria cattiva, e quindi mi è piaciuto molto il concetto di dare dei messaggi chiari, corretti, però con leggerezza e ironia. Quindi ho trovato questa tua forma di teatro canzone molto adatta alla missione che dovevamo compiere, cioè di cantarle, suonargliele all'influenza A, che mi ha fatto molto dannare, mi ha fatto molto disperare in questi mesi, ovviamente essendo pneumologo e vedendo un sacco di persone. Comunque, dottor Boffi, possiamo dire che ce li teniamo questi consigli anche per l'influenza stagionale, perché insomma, assolutamente, no? Assolutamente, perché comunque si parla sempre di epidemie, delle paure che rischiano di paralizzare le nostre normali abitudini di vita, le nostre iniziative, anche i nostri progetti, i nostri sogni. Quindi in particolare in questo caso, vista l'alta contagiosità, erano importante il discorso delle mani e di areare bene l'ambiente, però fare prevenzione, in particolare prevenzione ambientale e respiratoria, come sa bene, una delle cose che interessano a me di più su fumo e inquinamento, quindi questa è l'ennesima ottima occasione per cercare di aiutare le persone a degli stili di vita corretti. Gianna, quindi è stata una collaborazione, direi, molto semplice, no? Con sì, il dottor Boffi. Beh, direi di sì. Si è comportato bene, perché... Bene, benissimo. Benissimo. Tra l'altro, dottor Boffi, quanto dura in media una visita nel suo ambulatorio? Beh, noi come pneumologi facciamo sempre anche una spirometria, cioè una misurazione del respiro, per cui il risultato poi che porta magari a decidere di fare dare terapie farmacologiche meno al paziente richiede un'unione di questi due dati, quelli numerici della spirometria per capire se una persona ha un deficit, la raccolta anamnestica, cioè interrogare il paziente nei suoi comportamenti, se fuma, se sposta fumo passivo, se ha delle malattie già concomitanti o meno, e poi la visita, l'auscultazione, il mitico fonendoscopio. Ecco, perché qua stiamo parlando di quanto deve almeno durare una visita per essere fatta per bene, per creare quella relazione tra medico e paziente così importante. Dottor Boffi, allora, con la canzone di cui lei ha dato la consulenza scientifica, scritta per testo e musica da Gianna Coletti, quindi veramente un testo molto particolare, no? Che mescola un po' musica al teatro, insomma, anche perché lei è un'attrice non solo, perché lei è anche cantante. Siamo arrivati... Chitarrista, perché no? Chitarrista, ma sai che ballo anche il tip-tap? Mi spiace che adesso qui non si possa vedere per ovvi motivi, poi adesso ho su anche gli scarponi da neve, non renderebbe neanche a livello di suono. La invitiamo per la prossima volta. Va bene, con piacere. E noi siamo quindi arrivati a quota 7, quindi una canzone per ogni giorno della settimana. Dottor Boffi, prima di salutarla, io direi che ci ascoltiamo insieme una sorta di mix delle nostre canzoni per influenzate la canto e gliele suono, e poi ci salutiamo. Invece direi a Gianna Coletti di fermarsi con noi, perché nel teatro si parla della figura del medico, e poi parecchio. Certo. E poi ormai è diventata anche un po' lei, un po', no? Mezza medichese con la frequentazione del dottor Boffi per questa canzone. Quindi Gianna Coletti si ferma con noi, andiamo a sentire le nostre canzoni e poi salutiamo come il fo il nostro dottor Boffi. Questa è lezione di prevenzione. Lavati le mani. mani anche molte volte al giorno. Due. Usa il fazzoletto per tossire, starnutire. Tre. Se ti fa mal la gola, evita lavoro e scuola. Quattro. Evita gli sbalzi di temperatura. Con buon senso educazione ne ridurremo la diffusione. Davanti al naso e il fazzoletto, le mani sotto il rubinetto. È l'influenza a vostre propri ma fantastica snacca e pinguaggiarà. Nel cestino poi l'oggetto, non baciarmi per un po', ma se vuoi ti abbraccerò. Al virus un pugno io do, grazie a quello che io so. Al virus un pugno io do, grazie a quello che io so. Dottor Boffi, invece a lei diamo un abbraccio, speriamo di sentirci presto, buon Natale, grazie. Grazie, auguri a voi. Ciao. E votate la canzone di Gianna, fatelo anche per tutti gli pneumologi che vi hanno aiutato in questi mesi. Certo, andate sul sito di Radio 24 e potete riascoltare, votare, poi rivotare, insomma, fate voi. Grazie dottor Boffi. Ciao Roberto. Pronto soccorso. Professor Remuzzi, vede? Che molti medici, dai messaggi che arrivano, non sanno parlare, ma alcuni sono in grado anche di cantare, anche molto bene. Insomma, sembra che opportunamente stimolati i medici si mettano in gioco, e questo è un po' quello che vogliamo dire oggi ai nostri ascoltatori. Usate il vostro medico, professor Remuzzi. Sì, vogliamo dire esattamente questo. Il punto è che al supermercato è il cliente che comanda, dal dottore no. Il cliente ammalato, normalmente dal dottore siamo abituati a vedere che comanda il medico, in un certo senso la posizione che abbiamo raccontato all'inizio era estrema. Il cliente ammalato però deve capire di essere un cliente molto speciale. È un po' come dal barbiere, è una cosa irriverente ma rende l'idea, a me pare abbastanza bene. Chi di quelli che vanno dal barbiere si siede e dice faccia lei? I più vogliono i capelli così, la messa in piega cos'ha, sì, la barba più lunga, quella più corta. Il barbiere consiglia, ma si decide insieme. Ecco, non dovrebbe essere così anche dal medico? Dottor Gargiulo. Sono pienamente d'accordo. Io dico sempre che soprattutto il medico di medicina generale deve essere un consulente globale della salute del cittadino. Cioè deve essere quello che lo guida in un percorso difficile, qual è quello della malattia, o anche della presunta malattia. Non dimentichiamoci che anche il cosiddetto malato immaginario, che poi è malato veramente magari di una malattia immaginaria, ha bisogno di consulenza, di conforto e di aiuto. In questo senso il medico deve, il primo elemento è proprio questo per il medico, poi deve passare al resto e soprattutto deve essere disponibile a rispondere a tutte le domande. Io ancora oggi tante volte ho il mio paziente che va dallo specialista, torna e chiede a me le cose, e la mia domanda: ma perché non l'hai chiesto a lui? Mi risponde: beh, ma sa, quello è il professore. Ecco. Come per far capire che esiste una differenza abissale fra lui e chi l'ha visitato. Gianna, tra l'altro, posso darti del tuo, no? Sì, ormai sei della squadra dell'influenzata, la canto e gliele suono. Il dottor Gargiulo citava proprio il malato immaginario, no? Sì. Che non aveva grande stima dei medici, sì, che si prendevano cura di lui. Beh, intanto siamo nel 1600, probabilmente la medicina non era chiaramente così, insomma, considerata come giorni nostri, specialmente da Molière, il quale ha fatto una grossa satira abbastanza feroce nel malato immaginario, non per niente i medici, adesso non vorrei ripetermi con il pezzo iniziale di Brignano, ma perché guarda, lo rifà, vero? In qualche modo, infatti, come li chiama i medici della commedia? C'è il dottor Cagherai, il dottor Flatulenza, il dottor Purganti, no? E poi, in effetti, cosa facevano questi medici che lui considerava all'epoca dei cialtroni? Gli rubavano un sacco di soldi, perché è vero che lui aveva mille malattie immaginari, però questi, con tutte queste pozioni, con queste alchimie, intanto gli spillavano un sacco di soldi, no? Cosa che spesse volte, ahimè, succedeva. Sì, arrivano anche messaggi, molti dei nostri ascoltatori si lamentano di esami molto costosi, prescritti dal medico, c'è la lista d'attesa, si fanno privatamente, parleremo anche di questo, ma dato che vogliamo raccogliere e avere un po' il polso della situazione, io direi ascoltiamo insieme la nostra scheda e vediamo in quale aspetto vi riconoscete di più e poi subito chiamateci 824 0024, sentiremo poi Nunzia da Roma e Patrizia da Teramo. Il mio medico non ha mai tempo, è sempre di fretta. Il mio medico guarda molto più dentro lo schermo del computer che dentro ai miei occhi. Il mio medico non mi lascia parlare e minimizza sempre. Il mio medico non mi sembra sicuro delle decisioni che prende e mi prescrive ogni volta esami diversi e più complessi. Il mio medico è sempre di cattivo umore, non mi ha mai sorriso. Il mio medico usa sempre termini difficili che non mi spiega. Il mio medico non sa rassicurarmi, anzi, mi fa venire molte paure. Essere e benessere. Come va? Sì, sì, bene, sì. Sì, sì, bene, bene, bene. No, no, bene, bene, bene, mi sento bene. Mi sento bene, non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina. Bene, quindi migliora a vista d'occhio, bene, sto da Dio. Devo dire che sto bene, bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto: dottore! Mi sento sempre fuori posto! Come un applauso fuori tempo! Come una suola in mezzo al bosco! Voce strepitosa, professor Remuzzi. Avrebbe mai immaginato che Beppe Grillo avesse questa voce così, ben impostata? Davvero, davvero. Però c'è da dire, la cosa della suora in mezzo al bosco, non so perché l'abbia... Però, professor Remuzzi, è anche vero che spesso noi andiamo dal medico e chiediamo a lui di prescriverci una fine, mi scriva questo e mi scriva l'altro, lo prendiamo un po' come un distributore di ricette. Ma sì, ci sono anche degli ammalati che fanno di tutto per cercare di avere dei guai, che vorrebbero tutti l'ultimo ritrovato, l'ultimo esame, l'ultimo farmaco, se fosse possibile l'immortalità, per quanto il medico gli parli serve a poco, perché poi se non ricevono tutto un certo numero di ricette vanno da un altro medico. Quindi noi dobbiamo, credo che lo spirito di questa trasmissione sia quello di aiutare il medico, ma a educare il medico attraverso l'ammalato, quella cosa più bella che si possa fare, però dobbiamo anche educare l'ammalato a capire, per esempio, che non sempre il farmaco nuovo è meglio di quello vecchio perché costa di più, fare la TAC, ne abbiamo parlato recentemente, e farne tante espone a un altissimo rischio di tumori, quindi se il medico ritiene di non fare un certo esame, andare da un altro per farselo prescrivere è un errore. Allora, proprio andiamo ai casi concreti. Nunzia ci aspetta da Roma, Patrizia poi da Teramo, Leonardo da Firenze. Iniziamo allora con Nunzia, buongiorno. Buongiorno, e grazie per avermi richiamato. Allora, io ho sentito poco fa un messaggio riguardo al medico che guarda più lo schermo del computer che gli occhi del paziente. Sì. E io mi ritrovo proprio... È il suo. In questa, è il mio. È il si suo. Mette si mette davanti al computer, io dall'altra parte. Mi sembra di essere un robot. Dopodiché si limita magari a prendermi la pressione e finisce lì, nonostante io... Non vada quasi mai dal medico per questione di tempo, perché faccio un lavoro per cui non ce la faccio neanche a respirare a volte. Sono una che butterebbe via tutte le medicine perché non le prenderei per nessun motivo, anche se purtroppo... Ogni tanto tocca. Ci sono delle appunto quelle per la pressione, le devo per forza prendere. Quindi questo. Poi, per quanto riguarda invece gli specialisti di strutture pubbliche, sono stata da due specialisti, sempre per problemi comunque dovuti a per fischi all'orecchio e per delle visite agli occhi. Sì, quindi visite specialistiche. Com'è andata, Nunzia? Allora, l'otorino, ho speso più di 40 euro di ticket per sentirmi dire: signora, lei ci sente bene. L'oculista, che avrebbe dovuto darmi una risposta dell'esame del fondo dell'occhio, perché ho avuto dei problemi. Non gliel'ha data? Mi ha detto semplicemente: le prescrivo di fare il campo visivo. Quindi insomma, dire, grande, no? Insoddisfazione quella di Nunzia. Poi è anche vero che l'immunologo che mi segue per una connettività indifferenziata, devo dire che è un ho ritrovato il medico di una volta. Oh, meno male, Nunzia, perché quello che ogni volta che tu vai ti sente, ti ascolta alle spalle, ti accoglie, ti fa respirare, ti Nunzia, sente... Io darei, se lei è d'accordo, la parola ai nostri esperti, al dottor Gargiulo e al professor Remuzzi. Sentiamo poi anche Gianna se ci magari ci dà qualche spunto per così cercare di convincere il dottore a staccare lo schermo, gli occhi dallo schermo. Dottor Gargiulo. Sicuramente il computer è un aiuto, un ausilio ormai indispensabile, è altrettanto però importante riuscire a collocarlo nella posizione giusta, quindi dopo aver parlato possibilmente con il paziente, averlo guardato e veramente essersi guardati negli occhi, vedere sul computer, andare a trovare la cartella clinica sul computer è fondamentale, perché ci serve a levare dalla nostra memoria alcuni dati che ritroviamo poi lì sopra. Però... E purtroppo tendiamo troppo a girarci verso lo schermo e meno a guardare il nostro paziente, sì. E come possiamo fare? Sicuramente con un pochino di attenzione, cioè la cosa importante è riuscire a ricollocare alcuni momenti che sono fondamentali. Per esempio il momento della visita rimane un momento fondamentale per il medico di medicina generale, che vede lo stesso paziente spesso. È chiaro che la visita riduce la sua durata, perché ormai noi lo conosciamo abbastanza bene, ma esistono dei momenti in cui è indispensabile farlo sedere sul lettino, auscultargli le spalle, sentirgli il cuore, misurargli la pressione, cose che portano via pochissimo tempo se fatte in sequenza, quindi secondo un ordine, e che qua danno al paziente la soddisfazione di essere stato seguito, anche se magari noi abbiamo già risolto il problema dopo tre parole del nostro paziente. Bisogna dargli un po' di soddisfazione, perché quello fa parte della terapia. Gianna, tu hai un suggerimento per catturare l'attenzione del medico? Dottore, guarda, ha negli occhi? Ha negli occhi, per esempio, il mio dottore ha negli occhi per forza, perché il computer non ce l'ha e non credo che l'abbia mai avuto in tutta la sua vita. Infatti queste visite sono abbastanza particolari, lui crede molto nella forza della mente, è un junghiano, perciò ama tutto ciò che è la psicanalisi, l'inconscio. Quando tu vai lì per qualsiasi dolorino, intanto ti dici subito: allora, io non credo nella prevenzione, non ho mai fatto un'analisi in vita mia. Questo è il mio infatti non ha mai pazienti. Io perché vado? Perché sono l'unica. Ogni tanto, quando incontro gente, sono gli informatori, hai capito? E questo però mi solleva molto, perché voglio dire, è tutto certo, molto, ce no? Ce l'hai tutto per te. Ce l'ho tutto per me, e poi non solo, non parliamo mai della malattia, parliamo sempre di tutt'altro. Andiamo a Patrizia, che ci chiama da Teramo. Buongiorno Patrizia. Buongiorno a voi. Ci racconti, come va col suo medico? Cosa le ha insegnato? Allora, io premetto che era un specialista dove sono andata. Sì. Ma un specialista veramente che porterei... Cioè, gli faccio la pubblicità, talmente sono contenta. Oh, brava! Perché? Perché? Allora, gli spiego, premetto. Ho avuto un'ischemia cerebrale nel 2008. Sì. Ho fatto gli, dunque, dagli esami sono sanissima, è dovuta a una dissecazione di una vertebrale. Allora, il mio problema era che per quasi un anno, perché ho avuto questa ischemia? Sì. E ci stava pure il dubbio che dovevo fare un'angiografia. Sì. Quindi allora, lei voleva sapere la causa, ma nessuno causa, glielo gliele spiegava che cosa era successo. Nessuno, no, non si, nessuno mi poteva dire ma perché l'ho avuto. Sì. E allora sono andata da questo radioneurologo, sì, specialista primario, dunque anche quelli che dicono professore non hanno tempo, più di 40 minuti mi ha spiegata dalla A alla Z. Vede. Con parole semplici. E lei ha capito, è uscita soddisfatta. Patrizia, è vero, noi abbiamo bisogno di informazioni. Professor Remuzzi, anche nella telefonata precedente, si raccontava insomma questo desiderio di essere ascoltati, ma di avere anche una risposta. Patrizia adesso ci dice, finalmente ho incontrato dopo un anno uno specialista che mi ha spiegato dall'A alla Z. E Patrizia infatti è contenta. Sì, ci sono diversi punti. Intanto la questione del computer va impostata esattamente come ha detto il dottor Gargiulo. Il computer è importantissimo. L'intervento che abbiamo sentito dopo, io vado dal medico che non c'ha il computer. Sì, di Gianna infatti, Coletti che è qua in studio con buongiorno. Me. Buongiorno. Ecco, quello lì proprio non va bene. Perché il computer, bisogna dipendere da che cosa c'è nel computer. Se noi immaginassimo di curare gli ammalati degli ospedali senza avere un'adeguata informatizzazione, ormai è la base della medicina, sì, quindi potrebbe essere anche il caso che è più importante guardare che nel computer che negli occhi. Poi una volta che hai tutte le informazioni che devi avere, allora certamente tutto quello che diceva il dottor Gargiulo è quello che si deve fare dopo. Un punto fondamentale, abbiamo visto Patrizia che è così contenta, perché? Perché quel medico lì è uno che è nato per fare il medico. Il punto è che noi abbiamo ancora medici, insomma se uno è troppo introverso, troppo scontroso, è facile asseccarsi, ecco, secondo me il medico non lo dovrebbe fare, non è il suo mestiere. Certo, con gli ammalati sante parole. Non si dovrebbe parlare troppo, ma non si deve parlare nemmeno troppo poco, o peggio ancora non si deve parlare in troppe persone, perché anche lì il tempo... Tante volte si parla in troppi con gli ammalati e quasi sempre si dicono cose diverse, anche senza volerlo, perché il medico comunque ha pochi minuti per parlare con l'ammalato, l'ammalato ha tutto il giorno per pensarci su. Certo. E allora se persone diverse gli hanno detto cose diverse, qua, ha tutto il tempo per interrogarsi sulle inconsistenze tra per esempio lo specialista e il medico di medicina generale, che magari sono solo, o il medico di famiglia, che magari sono solo delle differenze formali. Quindi secondo me c'è molto da fare perché intanto le nostre università formino dei medici scegliendoli anche fra quelli che sono un po' portati. Essere e benessere. Eccoci, professor Remuzzi, siamo tornati. Quindi io volevo, se voi siete d'accordo insieme al dottor Gargiulo, dare proprio dei consigli concreti ai nostri ascoltatori. Ad esempio, che cosa dobbiamo chiedere al medico che ci prescrive degli esami? Quali sono le domande che non possiamo evitare di fare? Professor Remuzzi. Ma intanto dobbiamo chiedere perché faccio questi esami. Qual è il sospetto? Perché devo fare questi e non devo farne eventualmente altri, se questo esame radiologico è proprio necessario, quali sono i vantaggi nel fare una biopsia piuttosto che avere un'informazione in diretto sul tipo di malattia, che rischi ci sono a fare una determinata procedura, quando ho fatto un determinato esame che informazione ricavo che poi cambierà il modo di curarmi, perché è inutile che faccia un esame se poi dalla risposta dell'esame non deriva qualcosa che è utile per me in futuro o immediatamente, perché questo rappresenta la base per una cura. Ecco, queste sono le cose fondamentali. Dottor Gargiulo, spesso ho sentito medici che si lamentavano, anche se bonariamente, del fatto che il paziente entra e dice: ho sentito per televisione o per radio, ho letto, sono andato in internet e si fa così. E quindi suggeriscono magari al medico un esame oppure lo contraddicono. Molti dei suoi colleghi, di fronte a queste inviti, si irrigidiscono. Allora, vi ha aiutato in un certo senso, ad esempio, anche il proliferare di fiction che proprio centrate sul rapporto medico-paziente, o vi ha messo un po' in difficoltà? Stia attento a quello che dice, perché io in linea ho un primario, di una fiction molto importante. Le fiction sono assolutamente deleterie, su questo non ci sono dubbi, perché avendo una rappresentazione della realtà così alterata, ad esempio prendiamo il dottor House, una per tutte, un medico che sa tutto, che scopre tutto, che arriva in fondo a qualunque problema, burbero in quel modo, con quel modo così sgarbato di trattare i pazienti, è proprio completamente fuori dal mondo, però crea nel cittadino un'aspettativa di salute che è eccessiva, sembra che il medico possa essere onnipotente, e quindi il mancato arrivare ad una diagnosi, ad esempio, viene interpretato come un'incapacità del medico e non come quello che può essere normale in una medicina che non può fare tutto. Quindi per le fiction sono assolutamente contrario. Invece per quello che riguarda l'informazione medica, no, penso che sia giusto, e credo che sia giusto, lo diceva anche il professor Remuzzi, che il medico tenga conto di quello che gli viene detto dal paziente. Non dimentichiamoci che il paziente sente se stesso, va magari ad informarsi di più, porta queste informazioni al suo medico, che se lo mette da parte subito, immediatamente crea una barriera. È utile vedere queste informazioni, parlarne col paziente e poi scartare quelle che non servono. Io ho invitato Roberto Citran, che interpreta il primario Mario Bergamini in Medicina Generale 2, che tra l'altro per me è a me personalmente una fiction che piace molto, è in onda su Rai 1 alle 21 al martedì. Roberto, benvenuto. Intanto buongiorno. Volevo dire che è stata spostata adesso dalla settimana scorsa su Rai 3 da domani. Domani, perché io l'altra volta l'avevo vista sul Rai 1. Ecco, c'è stato un piccolo spostamento, ma gli interpreti rimangono sempre gli stessi. E allora mi chiedevo, il dottor Gargiulo dice possono complicare un po', no, la relazione tra medico e paziente. Lei a chi si è ispirato per interpretare il primario Mario Bergamini? Guardi, francamente non mi sono ispirato a qualcuno esistito veramente, ho incontrato sì un mio carissimo amico primario, mi sono fatto raccontare la sua esperienza, dopodiché ho raccolto alcune suggestioni che mi hanno aiutato a costruire un personaggio, un personaggio che avesse sia autorità, un rigore, una fermezza, dovuti però a una sua grande passione per la medicina, ma insomma anche rispetto al ruolo di responsabilità che copre un primario, ma mi sono creato una figura idealizzata, cioè come avrei voluto fare io il primario, come mi sarebbe piaciuto esercitare la professione se mi fosse stata data l'opportunità. L'importante è, ho sentito quello che ha detto il dottor Gargiulo, io credo che nella fiction si debba sempre dare una credibilità, no? Che il pubblico possa riconoscere qualcosa di conosciuto, a lui noto. Alla fine un attore raccoglie pezzi di vita di altri, li assembla, li mette insieme e poi li ripropone sullo schermo. Capisco quello che dice il dottor Gargiulo, nello stesso tempo però insomma io il dottor House non l'ho mai visto, un po' per non lasciarmi influenzare, un po' perché non vedo spesso la televisione nonostante la faccia, ma ecco questo, ho cercato di non creare assolutamente un personaggio onnipotente, perché credo che fosse fuori dalla realtà, capito questo, c'è uno che sa tutto e che non sbaglia mai, anzi insomma spesso i medici di fronte al paziente non dimostrano incertezza, questo è anche vero, però ecco, un conto è presentare un personaggio severo con un senso della disciplina molto forte, e un'altra cosa è invece manifestare un qualcosa che non esiste, insomma. Certo. Allora noi dalla TV rientriamo alla radio. Roberto Citran, grazie, buon Natale, grazie anche a lei, buona grazie giornata. E noi siamo in chiusura, e se avete ancora delle storie da raccontarci potete scrivercele a essere benessere@radio24.it. Professor Remuzzi, dottor Gargiulo, grazie per essere stati con noi. Grazie, grazie a voi. E noi ci trasferiamo rapidamente in cucina per un sano peccato di gola. Vogliamo peccare in salute e gusto insieme allo chef Fabio Campoli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Consulente, chef e consulente scientifico Rai 1, presidente del Circolo dei Buongustai, e insieme a lui abbiamo, come ieri, la dottoressa Chiara Manzi, che è presidente dell'Associazione per la Sicurezza Nutrizionale in Cucina e direttore del corso di alta formazione management e ristorazione del benessere. Abbiamo due minuti, uno a testa, uno per la ricetta e uno per il commento. Fabio, Partiamo subito. Allora, la ricetta per oggi è un pilaf di riso con tante verdure al vapore e una rana pescatrice al rosmarino. Come la prepariamo? La prima cosa, prendiamo la rana pescatrice, quindi la polpa di questo pesce tagliato a cubettini. Sì. Lo condiamo con del rosmarino fresco, un cucchiaio d'olio extravergine e un pochino di sale. Sì. E lo conserviamo in frigorifero per 2 ore. Questo pesce cambia consistenza e diventa molto sodo. A parte, facciamo un riso pilaf, un riso parboiled va benissimo, che tiene un po' la cottura. Il pilaf è una cottura in forno sul fuoco, fatta con un buon brodo vegetale, quindi brodo vegetale realizzato in casa. Riso e un cucchiaio di curry, non c'è olio. Buono. E lo facciamo cuocere o in forno o sul gas a fuoco dolce. E a parte tante verdure al vapore. Quindi ci possiamo sbizzarrire, come suggerite sempre voi, con le verdure di stagione. Dottoressa Manzi, ora tocca a lei, ma un commento rapido per dirci quanto sia salutare questa ricetta e soprattutto non ci faccia rinunciare al gusto. Certo, buongiorno a tutti. Beh, proponiamo con Fabio un primo piatto a base di riso e verdure che ci fornisce energia senza però picchi glicemici, sì, grazie alle fibre che rallentano e in parte impediscono l'assorbimento dei nutrienti e sottopongono l'organismo a minore stress. Inoltre le erbe fresche contribuiscono a ridurre l'utilizzo di grassi e di sale, rendendo i cibi saporiti e ricchi di antiossidanti. Raccomandiamo di usare sale iodato per la prevenzione delle malattie della tiroide. Questo ci piace. Che il corso management e ristorazione del benessere e la scienza della salute cresce insieme a grandi cuochi come Gualtiero Marchesi e Fabio Campoli. Per la prima volta in aula, in cucina, insieme ci saranno medici, ricercatori e grandi chef. E partirà da febbraio, ma noi avremo modo di parlarne anche domani. Intanto, Note di Gusto uscirà tra poco, il libro di Fabio Campoli, parleremo anche di questo corso. Vi saluto, scappiamo. Grazie a Gianna Coletti, andate sul sito a sentire la sua canzone. Grazie a voi. Allo chef Campoli e alla dottoressa Manzi diamo appuntamento domani. Buona giornata da Nicoletta Carbone.